anni che poi tutto cambierà, ci hanno detto di aspettare la nuova società, ma vorremmo far qualcosa, anche noi partecipare, non vi preoccupate, tutto andrà benone, ci pensiamo noi dell'organizzazione. Noi rappresentiamo voi, perciò amici lasciate fare a noi, poi domani ci sarà, per voi tutti pace e libertà. Noi rappresentiamo voi, perciò amici lasciate fare a noi.